America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, la macchina di Hillary continua a muoversi in avanti, la macchina politica naturalmente è Hillary e Hillary Clinton. Sentiamo. I know how hard this job can be. That's why I know Hillary will be so good at it. In fact, I don't think there's ever been someone so qualified to hold this office. Barack Obama, il presidente americano, è sceso in campo prima della conclusione formale delle primarie. Ci sarà martedì prossimo a Washington l'ultimissima primaria dove correrà anche Bernie Sanders, ma Obama ha deciso di bruciare i tempi e di offrire tutto il suo appoggio alla candidatura di Hillary Clinton per la Casa Bianca del 2016, un altro movimento direi piuttosto importante verso le ricuciture necessarie per il recupero dell'unità del partito. Obama ha dato tra l'altro questo suo endorsement, questa sua sottoscrizione in modo tecnologicamente avanzato, cioè in un video trasmesso nel primo pomeriggio dal sito elettorale di Hillary Clinton, che poi è stato ripreso naturalmente da tutte le reti televisive americane. Altro fatto non secondario, questo endorsement di Obama è arrivato poco dopo, quasi subito dopo l'incontro che ha avuto nella mattinata con Bernie Sanders, Bernie il ribelle, Bernie che non molla, Bernie l'uomo della sinistra che vuole andare fino in fondo, vuole arrivare fino a Filadelfia. In realtà credo, ma qui entriamo nel contesto dell'ipotesi, che arriverà soltanto fino a Washington, perché beh, è vero, uscendo dall'incontro con Obama, Sanders ha detto io continuerò a correre, andrò avanti, farò le primarie, ancora non ho deciso nulla, eccetera eccetera, però ha soltanto menzionato Washington, per cui, come dire, lui vuole chiudere la stagione delle primarie, ma l'incontro di ieri con Barack Obama è stato soltanto il primo negoziato che poi avvierà, tra l'altro ha già parlato anche con Hillary martedì, non dimentichiamolo, per recuperare l'unità assoluta del partito, per correre insieme, per battere, come ha detto ieri, Trump insieme. Sentiamolo. I am going to do everything in my power and I will work as hard as I can to make sure that Donald Trump does not become president of the United States. Ecco, dice testualmente: farò tutto ciò che nelle mie possibilità e lavorerò più che posso per far sì che Trump non diventi presidente degli Stati Uniti d'America. Devo dire che è incredibile per me, ha detto ancora Sanders, che i repubblicani abbiano scelto un candidato per la presidenza del 2016 che fa dell'intolleranza e della discriminazione le pietre miliari della sua campagna elettorale. Ecco, questo è il quadro e devo dire è un quadro che mette a fuoco la straordinaria forza della macchina politica di Hillary Clinton. Perché? Devo cercare di darvi un po' un'idea. Immaginate una flotta, immaginate la portaerei in testa di questa flotta, una flotta che si muove lentamente, che misura le distanze, il posizionamento e poi fa fuoco. Ecco, secondo me questa descrizione è quanto di più simile abbiamo per illustrare la macchina elettorale di Hillary, una macchina lenta, riflessiva, ma devo dire di una potenza di fuoco senza pari quando si mette in azione, e in azione si è messa contro Trump a partire da una decina di giorni fa, con una serie di azioni separate fra loro ma assolutamente coordinate da loro. Ve le elenco. Intanto, primo, il discorso di Barack Obama alla Rutgers University, dove ci fu un attacco frontale all'inesperienza, alla superficialità, alla negazione dei valori di fondo americani impliciti nella candidatura di Donald Trump. Dopodiché Hillary ha annunciato che avrebbe nominato suo marito Bill Clinton come zar dell'economia. Dietro questa nomina però c'è un obiettivo molto preciso, e cioè quello di presentare Bill Clinton come l'anti-Trump per le classi meno abbienti, per i colletti blu, per i lavoratori bianchi che si sentono un po' abbandonati da tutti, per le famiglie bianche che si sentono abbandonate da tutti. Dopodiché la vittoria a tavolino, diciamo, per il conteggio dei superdelegati. Questo l'ha fatto l'AP formalmente, ma è chiaro che il messaggio è venuto dalla campagna di Hillary. E subito dopo, il giorno dopo, la vittoria in California e in altri tre stati che di nuovo hanno amplificato la forza e l'immagine di Hillary. Dopodiché l'incontro alla Casa Bianca tra Sanders e Barack Obama per cercare di colmare il distacco. Infine, sempre ieri, l'appoggio formale di Barack Obama per Hillary Clinton. Ecco, questa è una macchina politica seria. Non sappiamo se questo tipo di macchina politica avrà futuro, perché perché abbiamo visto cosa hanno fatto Sanders e che cosa ha fatto Trump, naturalmente. Però, insomma, viene fatto di pensare che sarà piuttosto difficile per Trump sconfiggere questa macchina politica, perché produce una coreografia elettorale di comunicazione di altissimo livello che ha spiazzato le piccole fregate di Trump che avanzano in ordine sparso, spesso contraddicendosi fra loro, senza una macchina politica alle spalle. Non dimentichiamo che il partito è freddo nei confronti di Trump, quindi non è chiaro se ci sarà la macchina del partito ad appoggiarlo, e soprattutto senza una potenza di fuoco in grado di controllare l'esplosione che è tipica di Trump, per poi colpire invece con incredibile precisione l'avversario. Ecco, la corsa sarà molto interessante. È ovvio che Hillary Clinton ha bisogno dell'aiuto di Bernie Sanders per sconfiggere Donald Trump, perché Sanders ha mobilitato i giovani, ha mobilitato tutto un gruppo demografico che probabilmente non sarebbe neppure andato a votare. Quindi la seconda puntata di questa serie di offensive di comunicazione riguarderà la pace con Bernie Sanders, poi le convention e poi l'affondo finale. Ecco, Trump ha già risposto, ha detto: beh, questo endorsement, questo appoggio di Barack Obama per Hillary vuol dire che lui vuole altri 4 anni, vuole che votiate per lui per altri 4 anni. Ecco, già da questa risposta appunto individuale ci accorgiamo che, come dire, le battute di Trump cominciano a sembrare un pochino spuntate e un pochino meno efficaci di quanto non siano state finora. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!